Davvero, Jackie, i soldi ce li ha il ragazzino. Sale, gente. Lui voleva solo un'auto. E Drugo voleva solo il suo tappeto. Nessuna avidità. E che dava un tono all'ambiente. L'oscurità si abbatté su Drugo, più nera del batacchio di un manzo nero in una notte senza luna nella prateria. Benvenuti e benvenute, siete sintonizzati su Radio Onda Rossa, questa è Tracce di Cinema. Io sono Ottavia, insieme a me Federico e David. Siamo lo stesso gruppo, ma cambia decisamente la trasmissione, anche se comunque ci sono delle attinenze con Stona Favola. Parliamo comunque di cinema e di musica, soprattutto questo era Bob Dylan. E il pezzo si intitolava The Man in Me e introduce il nostro film di oggi, di cui vi parleremo attraverso degli aneddoti e delle curiosità e dei commenti di ospiti. E il film è Il Grande Lebowski, un film del 1998, capolavoro dei fratelli Coen, che si svolge a Los Angeles nei primi anni 90 durante il conflitto del Golfo con Bush e Saddam. Il protagonista è Jeffrey Lebowski, chiamato The Dude, tradotto dagli sceneggiatori italiani come Drugo, interpretato da Jeff Bridges, un grande Jeff Bridges, che è un un hippie ingrassato con barba e capelli lunghi, giocatore di bowling, che ama bere White Russian e ne beve abbastanza durante il film, e fuma anche abbastanza spinelli in qualsiasi situazione. Rigorosamente di marijuana. Rigorosamente di marijuana. Nel film Jeffrey Lebowski è uno scansafatiche che ama vivere in grande tranquillità e che viene scambiato da due sgherri per un suo omonimo, il miliardario Jeffrey Lebowski, e dopo che viene scambiato per questo personaggio, questi due sgherri gli fanno pipì sul tappeto, li pisciano sul tappeto. Lebowski si arrabbia molto, quindi decide di andare a farsi rimborsare da il suo anonimo miliardario, e da qui inizieranno una serie di rocambolesche avventure che lo coinvolgeranno in situazioni che neanche lui probabilmente si aspettava e che voleva avere, ecco, visto la sua filosofia di voglia di vita tranquilla. Rispetto al, tu l'hai definito scansafatiche, ma di più, lui è proprio contrario al lavoro. Al lavoro, sì, poi ne parleremo dopo. È nata anche una religione che è il dudeismo, e che appunto inneggia a questo, al lavorare il meno possibile e allo stare il più tranquilli possibile, che è un po' il mio desiderio. Quindi io mi sento un po' il grande Lebowski. Normalmente nella vita, non so voi, però è così. Un altro pezzo, una cover, Hotel California, suonata dai Gypsy King, gruppo che ha origine francesi, ma in realtà viene da un panorama più interessante, che è quello gitano, e questa cover è, diciamo, una sintesi tra il genere musicale dei Gypsy King, che è quello classico del flamenco, e il funky. Guapo, ella llama a mi amigo. Boschi è un film cult anche per la colonna sonora, bisogna dire, che infatti è caleidoscopica proprio, ci stanno pezzi come anche quello di Bob Dylan, Man in Me, oppure ascolteremo tra poco Kenny Rogers, Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In, e che sono un misto perfetto tra immagini, yes, e musica. E anche c'è un altro fatto da dire, che ogni brano definisce un personaggio. Ad esempio, il pezzo che abbiamo appena ascoltato definisce il personaggio di John Turturro, che è Jesus, che è veramente stupendo. È uno dei migliori personaggi. Sì, poi è un piccolo cameo. Si vede pochissimo, però fondamentale. Divertentissimo. Lui fa il giocatore di bowling, viscidissimo. In tuta, che addirittura lecca la palla da bowling, la lucida, se lucida questa palla. E ci sono altre musiche che definiscono altri personaggi, ovviamente ci stanno i tedeschi nichilisti, che Kurt Bruel, che ha creato le musiche originali del film, sì, e che techno pop ispirato ai Kraftwerk, per dire, anche se non compaiono, però ci sono dei riferimenti a loro nel film. Sì, un disco per intenditori. Ah, io vorrei ricordare un po' anche il cast del film, no? Brava. Abbiamo parlato di John Turturro, che fa un piccolo cameo ma straordinario, un grandissimo Steve Buscemi, che interpreta la parte di Donnie, che viene sempre messo in mezzo e che... Più che non, messo in mezzo, messo da parte. Messo, no? Da parte, tutto quello che dice è sbagliato. Lui non sa mai quello che succede. Esatto. E poi una fantastica Julianne Moore, giovanissima, che interpreta la figlia del miliardario Lebowski. Philip Seymour Hoffman, ahi noi l'abbiamo perso, in Brent, il maggiordomo del miliardario, sempre un po' sudato, sempre un po' così di corsa per dare una buona impressione di sé e del suo saper stare sul pezzo, insomma. Poi Ben Gazzara, straordinario in Jack e Trihorn. John Goodman l'hai detto? Sì. No, John Goodman me lo sono dimenticato. È uno dei pezzi forti, John. È uno dei pezzi con i suoi trascorsi in Vietnam. Sì. E poi, per esempio, ci sono delle curiosità. Per esempio, se non sbaglio, Thorsten Voges, che è uno dei due nichilisti, è il batterista. No? Il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Fly. Raccontami di te, Jeffrey. Non c'è molto da raccontare. Io sono stato uno degli autori della dichiarazione di Port Huron, sai? Della prima dichiarazione di Port Huron, non della seconda. È compromesso a stesura. E poi ho... Sai chi erano i Seattle Seven? Mm-hmm. Beh, c'ero anch'io. Sì, ero uno di quei ragazzi. Poi ho lavorato nel settore musicale per un po'. Sì, in tournée con i Metallica. Facevo il tecnico del suono. Una manica di stronzi. Poi, sai, un po' di questo, un po' di quello, così. La mia carriera mi ha un po' rallentato ultimamente. E di cosa ti occupi nel tempo libero? Ma le solite cose, bowling, un giro in macchina, un trip d'acido quando capita. Ecco, qui c'è lui, il protagonista, il nostro protagonista Dude, che si racconta un po'. Fa dei riferimenti precisi che spieghiamo brevemente, perché per esempio la dichiarazione di Port Huron fa riferimento a quella del movimento degli Students for a Democratic Society, SDS, che nel giugno del 1962 fecero proprio un manifesto, scritto poi materialmente dai due copresidenti Haber e Hayden, che era un manifesto contro il razzismo, contro i partiti, contro la guerra fredda e l'armamentario nucleare, contro le disuguaglianze economiche della società a stelle e strisce, e anche contro l'anticomunismo in chiave maccartista che caratterizzava l'America di quel periodo. Utilizzava e aspirava a utilizzare mezzi come la democrazia partecipativa, la disobbedienza civile e la non violenza, ed era anche, e auspicava un lavoro sul welfare che funzionasse un po' da argine alle disuguaglianze economiche di quel periodo. L'altro riferimento è al Seattle Liberation Front, il movimento radicale contro la guerra in Vietnam. I Seven, a cui fa riferimento Jeff Bridges nello spezzone, sono quelli che furono accusati di cospirazione per incitamento alla rivolta. Uno di questi fu Jeff Dowd, che è proprio uno dei finanziatori del primo film Blood Simple dei Coen. E adesso introduciamo un'altra canzone che è Kenny, Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In di Kenny Rogers, e questa canzone fa parte della controcultura anni 60 ed è scritta come monito sui pericoli dell'LSD. Infatti questo brano accompagna le allucinazioni del dude quando viene drogato da Jack e Trihorn. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. David, ricordiamo cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo appena ascoltato di Kenny Rogers, I just dropped in to see what condition my condition was in. Io invece vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Onda Rossa, e se volete sottoscrivere alla radio potete farlo sul conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Valsci 56 00185 Roma. Per ogni informazione potete andare sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info. E poi qualche curiosità sul film, per esempio i costumi. Vi racconto che la maglietta con le scritte asiatiche che il drugo porta durante la scena in cui il grande Lebowski descrive il rapimento della giovane moglie è stata vista addosso a Jeff Bridges anche in alcune scene della Leggenda del Pescatore. Che la trama di questo film è parzialmente ispirata al romanzo Il grande sonno di Raymond Chandler, e che per non far dimenticare a nessuno chi era Dude, ha sul comodino il saggio L'essere e il nulla del filosofo esistenzialista Jean-Paul Sartre. Poi sul dudeismo ci torneremo sopra. Un'altra curiosità è che, rispetto sempre al cast, il montatore del film Roderick Janis è lo pseudonimo dei fratelli Coen stessi che l'hanno scritto e diretto. Allora, adesso ascoltiamo un brano di Masumak che si chiama Itaipura, che accompagna una festa sulla spiaggia a Los Angeles con falò giganteschi e tantissime persone che ballano sulla spiaggia vicino alla villa di Jackie Treehorn, dove infatti Dude incontra Jackie Treehorn. Ima Sumac, per farla breve, per dirla brevemente, è peruviana. Negli anni 40, fine anni 40, arriva negli Stati Uniti, ha un successo incredibile. È una figura molto fantasiosa. Principessa Maya. Infatti, lei è convinta di essere una discendente della dinastia Maya, Inca anzi. Inca, sì, sì. Era molto famosa con i primi dischi pubblicati negli anni 50, lei era vendutissima negli Stati Uniti. Ha una voce straordinaria. sai, fortunatamente io rispetto un regime di droghe piuttosto rigido per mantenere la mente, diciamo, flessibile. Ecco, a proposito di droghe, David, appena abbiamo mandato la Sumac, diceva che per lui questo è un pezzo, un trip selvaggio. E abbiamo, questo ci introduce, ma non per il tema droghe, per carità. Ogni riferimento è puramente casuale. Al nostro primo ospite della prima puntata, che è Alessandro Boschi. Ciao Alessandro, benvenuto. Grazie, bentrovati. Allora, cosa volete sapere, droghe a parte, perché magari potrei essere esperto anche in quello, droghe cinematografiche naturalmente, non sintetiche. Allora faccio un po' un riassunto, perché io ho sentito Steve Della Casa, che è un nostro amico, e su un intervento, bella entratura davvero, esatto, sui Le Boschi o sui Cohen o sulla colonna sonora nello specifico, sì. E lui mi ha detto: senti Alessandro Boschi, considera che la sua email era Ale Boschi, per cui ha detto sì, è il nostro uomo. Beh, io ti ringrazio, bastasse così poco. Comunque sì, posso essere il vostro uomo, perché comunque è un film che io ho adorato. Ve lo siete rivisti voi recentemente? Perché preparare la puntata, una delle condizioni è rivedersi il film. Bravi, perché non tutti lo fanno, anzi secondo me voi sapete che quando c'è qualche conferenza stampa arrivano dei giornalisti che fanno domande e non hanno neanche visto il film di cui si sta parlando. E questo è grave. Quindi, ecco, succede. È grave, però è vero. Anzi, c'era una volta un critico che diceva: ma perché vedere il film? Perché poi dopo devi cambiare idea su quello che devi scrivere. Tutto sommato è un paradosso, però spesso vi posso assicurare che è abbastanza verosimile. Comunque il film... Sì. Voi interrompetemi quando volete. No, intanto volevo brevemente introdurti. Come ti racconteresti tu a chi ci ascolta? Di cosa ti occupi, Ale? Allora, io mi occupo ovviamente di cinema, sono regista e conduttore di Hollywood Party, anche se una delle medaglie a cui, chiamiamole così, a cui tengo di più è quella di essere stato l'ideatore della trasmissione che è andato per molti anni prima su Stream e poi sulla 7, La Valigia dei Sogni, che scrivo e scrivevo insieme ad Alberto Crespi. Nell'ultima edizione era condotta da Simona Nicchiari, ed era una trasmissione che tornava sui luoghi dove erano stati girati i film, poi con l'accortezza del regista che riproduceva la stessa inquadratura antica, spesso erano film in bianco e nero quelli che studiavamo, e andavamo in dissolvenza e vedevamo quello che era rimasto uguale e quello che invece era cambiato, quindi era una sorta di salto nel tempo. E non parlavamo però noi di cinema, parlavamo di film, sì. Perché io avrei delle difficoltà a dirti che cos'è il cinema, mentre invece so benissimo che cos'è un film. Quindi ecco, io essenzialmente il mio biglietto da visita è uno che guarda il cinema di pancia, che nonostante me raffibbino, io rifiuto l'etichetta di critico, però a volte capita anche di scrivere insomma delle cose che assomigliano a delle critiche cinematografiche. Che film avete parlato finora? O sono io il primo? No, sei il primo, e come ti dicevo quando ci siamo sentiti, avresti potuto parlare dei Coen più in generale, del film del grande Le Boschi nello specifico, certo. Oppure della colonna sonora, che poi è il tema. Parliamo di tutto allora. Vai. Abbiamo due ore? No, ovviamente no. Allora, il film è un film del 98, è un film fantastico che si ispira tra l'altro a un classico del cinema, che è Il grande sonno di Avaro, quello con Anthony Hopkins e Rainbow Cole. E poi ne hanno anche fatto un altro, Michael Winner, ma non era assolutamente all'altezza. Se vi dovessi raccontare poi la storia, onestamente vi direi che si basa su uno scambio di persona, ma detto questo poi non saprei come andare avanti. Ma com'è, ma che film è il grande Le Boschi secondo te? Visto che tu sei un critico di pancia, è un film lisergico. Oh. È un film che in un certo senso vi porta un po' a spasso, sia per quello che riguarda la narrazione, sia per quello che riguarda anche i personaggi, ed è, sapete che Coen intendono il cinema come manipolazione. Loro si manipolano, perché la cosa bella di loro è che entrate dentro a un qualcosa che vi sembra essere del tutto desturato, che faticate, perché se io vi dovessi raccontare per filo e per segno la storia di Grande Le Boschi, ma non solo, ma anche di altri film dei Coen, avete delle difficoltà. Però poi il film ti piace e alla fine ne ricavi il senso. Non so se vi ricordate, sì, vi ricordate perché l'avete rivisto, anche il finale, che sembra una cosa molto tradizionale, anche molto retorica, con Sam Elliott, che è questo personaggio, una sorta di coscienza critica del film, è retorico ma non lo è, perché comunque quelle cose che lui dice voi ci credete. Quindi il film, che si intreccia con la colonna sonora in maniera proprio indissolubile, è una sorta di viaggio in quelli che sono, ora vi farà un po' ridere questa cosa, in quelli che sono certi, usiamo un termine complicato, i topoi del cinema specialmente americano. Io immagino che voi abbiate visto o comunque abbiate sentito parlare di America Sniper, di tutte le polemiche che ci sono state. Questa è un po' l'altra faccia della medaglia. Quello che voglio dire è che in questo film, tra le altre cose, c'è anche una sorta di americanità. Ma l'americanità non è quella del nazionalismo, del quale è stato accusato anche Clint Eastwood in questo film, bellissimo peraltro. L'americanità si esplica in dei dettagli, ad esempio nelle scarpe con cui gli americani giocano a bowling, sono sempre quelle da decenni, oppure nelle frange che mettono nei manubri delle biciclette. Ecco, attraverso questi dettagli i Coen sono riusciti a ricostruire una sorta di americanità che però è molto vera. Il personaggio sono due personaggi, ovviamente parliamo di Jeff Bridges e del suo, poi c'è l'altro, John Goodman, Buscemi, esatto, e sono dei personaggi che sono veramente degli stereotipi, perché da una parte c'è la sorta di disimpegno, che è quello del drugo, che è una parte dell'America che dice ok, vediamo come va, tant'è vero che poi alla fine ci dice bah, meno male che ci sono i personaggi come drugo. Poi invece c'è l'amico, quello più corpulento, adesso mi sfugge il nome, pensate un po', insomma, John Goodman, che ha, se voi fateci caso, ha una sorta di iconografia che è molto simile a quella del drugo. Anche lui ha delle camicette colorate e ha di bermuda, ma ha una pettinatura e degli occhiali che non si toglie mai, che subito vi fanno pensare a Reduce. Esatto. A Reduce, che però non è mai uscito dal suo personaggio. Infatti quando lui incontra le persone che gli chiedono ma chi è questo qui, chi sono io ho visto i miei amici morire con la faccia nel fango. Ecco, vedete, questo è un modo secondo me ironico ma sostanziale per raccontare quello che è l'America del dopo Vietnam e di tutte le dopoguerre che ci sono state là. In questo interviene una colonna sonora suntuosa. Ecco, infatti io ti volevo chiedere appunto questo. E Ottavia? Sì, Ottavia. Ottavia, ti ricordi che noi abbiamo parlato del tuo film, del tuo libro Hollywood Party? Certo, ti ricordi? Mi ricordo, sì, qualche bellissimo. Anno fa, anche se io ho una memoria molto labile e complicata. Come Pesci, 12 secondi, va bene. Però me lo ricordo perché è stato emozionante venire in trasmissione. Ma con voi. È un po' gentile. Come è emozionante vuoi. Sentirti oggi qua sulle frequenze della nostra radio, Radio Onda Rossa. No, ma io guarda, ti dedico una frase che dice The Man in Me di Bob Dylan: ci vuole una donna come te per tirare fuori un uomo come me. Ma vabbè, mi sento proprio emozionatissima. No, ma ti volevo dire, ma quanto sono, perché noi abbiamo fatto questo programma sul cinema e sulle colonne sonore, sì, del cinema, ma certo, sono veramente importanti le colonne sonore in un film, cioè possono dare un'impronta totalmente diversa a un film? Secondo me sì, guarda, io non sto a fare la distinzione tra musica diegetica e extradiegetica, come piace ai critici, quelli con la C maiuscola, no? Secondo me invece la colonna sonora è importante, come in questo caso, quando va a innestarsi alla perfezione con le vicende del film. I testi di alcune di queste canzoni, quasi tutte in realtà, parlano di rapporti piuttosto complicati. Addirittura c'è My Mood Swings di Elvis Costello, che parla degli sbalzi d'umore, degli attacchi di panico. Ecco, sbalzi d'umore e attacchi di panico sono esattamente quelle sindromi che colpiscono le persone che hanno subito dei traumi, come in questo caso ad esempio John Goodman. Poi c'è chi non la risolve e come lui rimane ancorato ai problemi, oppure c'è chi come Drugo, che invece, tra l'altro, è una traduzione pessima perché in originale era Dude, un film che andrebbe visto sicuramente in lingua originale, anche se la voce di Sergio Di Stefano è notevolissima. Per cui sì, la colonna sonora è importante anche perché dà la possibilità ai Coen di comunicarti delle cose attraverso delle sensazioni che altrimenti non sarebbero stati in grado di comunicarti. Vi ricordate la scena in cui il drugo prende un taxi e in questo taxi c'è un autista afroamericano, sì, sì. Penso che sia il termine più esatto, che ascolta gli Eagles, che sì. Sicuramente sono un gruppo ma tutt'altro che piace alla gente di colore. E però lì appunto ti crea il paradosso, quindi ti costringe a pensare, dice, ma perché? Che cosa succede? Lui comunque con quella canzone, con quella situazione che dura non più di 30 secondi, quindi con la parte della colonna sonora, ti riesce a parlare di un problema che, quella, che, di un problema che è quello dell'integrazione, che è sempre presente. Ora, come vi dicevo prima, questo film è un film che si presta a qualsiasi tipo di lettura. C'è la parte della pornografia che peraltro è attinta interamente dal film Il grande sonno di Howard Hawks, non so se vi ricordate, con l'intervento di Ben Gazzara, che fa lui il produttore. E poi c'è anche una chicca, se posso continuare a parlare di questa, diccela, musica, diccela. Di questa colonna sonora, perché è fondamentale. Sono dei brani che sono eseguiti da Van Zandt. Van Zandt è un compositore al quale gli autori americani continuano ad attingere. Pensate solo che alcune delle sue canzoni sono state date in True Detective e in True Blood. Ma c'è anche una chicca, che è la presenza di una canzone, pensate un po', del nostro compianto Piero Piccioni. Adesso fra poco la passiamo, la passiamo. Traffic Boom, se non sbaglio. Bellissimo, che è, ecco, sentite lì la modernità di quella canzone, sentite quanto devono aver fatto di ricerca i fratelli Cohen per essere riusciti a inserirla in una colonna sonora dove ci sta la perfezione, dove tu non lo diresti mai, perché è vicino a Bob Dylan, vicino a Tito Puente, eseguito da Santana, voglio come va. Vicino a, non so, a Mussorgsky, addirittura a Mozart, ci sta anche Piero Piccioni e ci sta bene. Quindi che significa? Significa che un film deve essere prodotto seguendo una sceneggiatura rigida. Sapete che i Coen scrivono alla grande, è un genere di scrittura che all'inizio ti pare che sia dissonante, poi alla fine invece tutto torna, e questo è arricchito da questa colonna sonora che non ha una chiamiamola un'onda omogenea, ma è in realtà un continuo fare delle puntate nei vari generi, che però alla fine riescono a darti l'esatta dimensione del film, l'esatta dimensione straniante, e riesce a dare anche un valore emotivo molto forte. Nella scena finale, quando vengono disperse le ceneri di Buscemi, che una scena tragica che si risolve in una cosa comica, perché le scene arrivano tutte in faccia al drugo, però sfido chiunque di voi a non commuoversi in quella scena lì. Che significa? Significa che non è tanto l'allestimento quanto l'insieme, l'allestimento di quella scena in particolare, quindi quella deriva comica, ma l'insieme del film che è arrivato a quel punto lì ti commuove in ogni caso. E tra l'altro, se vi ricordate in quella scena, c'è una cosa curiosa: verso la fine appare in alto sulla scogliera un uomo che uno si aspetta a dire, ma cavolo, ma questa scena andava tagliata, e invece no. Allora ti viene da pensare, ma saranno stati Cohen a mandarcelo, oppure hanno detto no, questa scena è venuta bene così, ci teniamola, perché qui poi si aprirebbe un mondo a parte, vi potrei raccontare ore e ore di tagli non avvenuti. Beh, ma magari ci risentiamo, no? Alessandro, io ringrazio, ma... ti ringrazio. Senti, ci lasciamo con uno spezzone dedicato alla figura di John Goodman. Un abbraccio e alla prossima. Grazie, siete stati molto gentili, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Grazie, ciao Ale. Ciao ciao. Scusi signore, le dispiacerebbe abbassare la voce? Ci sono delle famiglie in questo ristorante. La prego, cara. Per sua informazione, la Corte Suprema ha respinto il principio di diversificazione pregiudiziale. Non c'è niente qui il primo emendamento. Signore, se non si calma, mi vedrò costretta a chiederle di andare via. Signora, ho visto i miei amici morire con la faccia nel fango perché io leggi codessimo questo ristorante per famiglia. Bene, me ne vado. Dai, Drugo, non andare via. Andiamo, questa cosa ci riguarda tutti. È la base della libertà. Questa era Traffic Boom di Piero Piccioni. Oh, proprio riprendendo il discorso che ci faceva Alessandro su Piero Piccioni, è una bella, gran bella figura per quanto riguarda il mondo delle colonne sonore. Lui era figlio di un musicista, però completamente autodidatta, ed è, oltre a suonare diversi strumenti e a comporre, ha curato la colonna sonora di circa 300 film, il che mi sembra una cosa ragguardevole. Rilevante. A proposito del drugo, volevo dire che è nata proprio una religione, no? Su questo, ispirata a questo personaggio, il dudeismo. Cioè, Dude passa le giornate tra una partita di bowling con gli amici, una fumata di marijuana e grandi quantità di White Russian. È appunto il principale ispiratore della Church of the Latter-day Dude, una religione laica che esalta la pigrizia e cerca di distogliere la gente dalla frenesia e dalle insoddisfazioni contemporanee. La religione del dudeismo, come racconta Oliver Benjamin, che vive adesso a Chiang Mai in Thailandia, parla appunto di anche idee che vengono dalla filosofia antica, e lui dice: la vita è corta e complicata e nessuno sa cosa farci. Così non fare niente, prendila con calma, smettila di preoccuparti così tanto da andare in finale, rilassati con qualche amico e qualche birra, e sia che fai strike o gutters, che sono 0 punti nel punteggio del bowling, fai del tuo meglio per rimanere te stesso, che è come dire tieni duro o sopporta e sorridi. Lui dice che per allontanare le difficoltà della vita basta avere piccoli piaceri quotidiani, come fare un bagno, giocare a bowling e stare con gli amici, che sono poi le abitudini preferite dal drugo del Grande dei Boschi. Ah, lui dice anche un'altra cosa divertente, secondo me, che idealmente questa religione vorrebbe aiutare tutte le persone a far soldi lavorando il meno possibile, che mi sembra una condizione fondamentale per essere felice. Cosa cazzo c'ha da ridere questo? Chi è? Knox Harrington, l'artista del video. Quindi è Oli che ha il malloppo. Beh, no, non esattamente. È molto complicato come caso, Maud. Un mucchio di input e output, una quantità di informazioni e un mucchio di elementi da considerare. Ho una quantità di elementi da tenere presente. Con questa stronzata, Walter, tu non sei nemmeno ebreo. Porca puttana, ma amico, tu sei un polacco cattolico. Ma che cazzo dici? Mi sono convertito quando ho sposato Cinzia. Sì, avanti, Drew. Sì. Conosci la storia? Sì, lo so, e 5 anni fa hai ottenuto il divorzio. E che vuol dire? Chi divorzia restituisce la tessera della biblioteca, cambia patente, smette di essere ebreo. A destra, questo è il vialetto. Quando uno è ebreo Ecco, siamo sempre lì. Tutto gira sempre intorno alla tua morbosa storia con Cinzia. Per cui le tieni quello sgorbio di cane, frequenti la sua sinagoga. Vivi completamente nel passato. 3000 anni di bellissima tradizione da Mosè a Sandy Koufax. Puoi scommetterci le palle che voglio vivere nel passato. Anzi. Un altro omaggio a John Goodman. Grandissimo. E invece io volevo dire che in tutto il film Drugo è fissato col bowling, ma non si vede mai giocare a bowling. E che ogni anno a Louisville, nel Kentucky, si svolge il Lebowski Fest. Quindi chi è un appassionato del personaggio del Grande Lebowski può partecipare. Ci sono celebrazioni che ospitano visioni collettive del film, concerti, sosia del protagonista del film e altre cose buffe. Non solo lì però, perché le Boschi Fest si svolge ogni anno in città diverse degli Stati Uniti. Ah, e poi volevo dire anche che la parola fuck, con le relative variazioni, è pronunciata 281 volte e Jude dice la parola man 144 volte, ovvero una volta al minuto circa. Eh beh, l'uso dello slang è un elemento che contraddistingue proprio questo che film. Però poi perdiamo un po' poi nel doppiaggio per forza di cose. Potremmo ascoltare Moondog, che è questa bella fanfara che caratterizza proprio la prima parte del film. Quasi ai saluti. Eh sì, siamo quasi ai saluti, sono le 15:59. Noi ci prepareremo per la prossima puntata, che è una sorpresa naturalmente, però chiediamo a tutti gli ascoltatori della radio di contribuire anche con delle loro idee, no Federico? Scrivendo... Sulle colonne sonore, l'indirizzo di posta elettronica al momento è sempre quello di visionari@ondarossa.info, per qualsiasi idea rispetto a colonne sonore, chiaramente film che vanno apprezzati anche per il loro significato filmico, non necessariamente solo per la colonna sonora, anche perché ce li dobbiamo vedere prima, per cui... Ah, e poi anche se hanno magari delle notizie da farci notare, sì, insomma noi siamo, esatto, molto felici, esatto, che gli ascoltatori contribuiscano a questa trasmissione, insomma, che è una trasmissione collettiva. Quando è l'appuntamento? Ci sentiamo il prossimo di giovedì 19 febbraio dalle 15 alle 16 su Radio Onda Rossa 87.9. Un saluto a tutti da parte mia, Ottavia. Davide, che chiudiamo? Prima uno spezzone audio del Dude che parla col poliziotto che gli ha ritrovato la macchina, e poi ci sentiamo la canzone di Townes Van, anzi dei Rolling Stones, Dead Flowers, interpretata da Townes Van Zandt, che di cui ne parlava prima. Ciao ciao, a giovedì prossimo. Voi pensate di ritrovarli, ladri? O insomma siete in possesso di qualche indizio? Indizio? Certo, come no? Controllerò con i ragazzi della scientifica giù al laboratorio. Abbiamo altri 4 detective impegnati sul caso. Stiamo facendo i turni. Indizio. La mia unica speranza è che Big Lebowski mi ammazzi prima che i tedeschi mi taglino l'uccello. Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. No, I won't forget to put roses on your grave.